si perda di vista id aspe il disperato serpiamo steria in lui e nel suo amante ami la figlia in me l'amor del padre signor se un grande amore occupa il vostro cor muovervi chiama conservar nel genitor la figlia del cuore a quel del sogno ed aspe non lo